Voci in scena di Marta Cagnola. Buongiorno da Marta Cagnola, un nuovo appuntamento con le nostre voci in scena, gli incontri con i grandi protagonisti della musica, del cinema, della cultura. 48 anni di carriera, quasi 60 album tra dischi registrati in studio, dal vivo e raccolte, sono uno dei più conosciuti complessi della musica italiana. Basta il nome, i Nomadi. A parlarci di loro, intanto della loro calda e lunghissima estate, è il leggendario Beppe Carletti. È un'estate piena di concerti, più dell'anno passato, quindi è un po' dell'incredibile, perché cosa vuoi? La crisi si sente anche da noi, ma... non lo so, è un'estate che sta andando tutto bene, io spero che finisca altrettanto bene. Stiamo girando tutta l'Italia, fra un po' cominceremo a scendere verso la Calabria, la Campania, andremo in Sicilia, siamo già stati in Sardegna, ci torneremo. Adesso Trentino, un po' dappertutto, guarda, l'Italia sembra piccolina, ma è bella lunga. Ma è vero che non esiste un paese italiano che non sia stato toccato dai Nomadi nella loro storia? E che se un paese non è stato toccato dai Nomadi in realtà non esiste? Secondo me hai ragione. Sai che ci sono dei paesi che mi dicono: ma ti ricordi che sei stato qua 30 anni fa? La miseria, dico, come faccio a ricordarmi 30 anni fa? Però ti racconto un particolare molto bello. Sono stato in un paese che il barbiere del paese mi ha fatto vedere il manifesto di 30 anni prima. Bellissimo, è stata una cosa, adesso non dico emozionante, però da... bello, no? Da pelle d'oca, questo signore qua si è tenuto questo manifesto per tutti questi anni, e quando ci sono ritornato mi ha detto: che bello che ti ho rivisto, beh, piacere reciproco. Qual è il segreto dei Nomadi? Svelalo. Ma non c'è nessun segreto, tutto quello che si vede, noi non abbiamo segreti, guarda, forse è per quello, capito? Non avendo segreti, tutto quello che si vede e che si tocca, noi siamo così, persone molto, molto semplici, penso di anche umili e coerenti comunque. Allora penso che il segreto sia questo, unitamente alle canzoni, che sono la base, penso, fondamentale della nostra storia. 1963, e tu c'eri? Io c'ero, sì, ci sono sempre stato. Io, sai che adesso ti sembrerà strano, ma non mi sembra neanche che siano passati tutti questi anni. Cioè, e guardo sempre avanti come se fosse il primo anno, no? Che dico: ma adesso dopo devo fare questo, poi devo fare l'altro, poi farò un'altra cosa ancora. Ma sai, tu quando fai una cosa che ami, no? Una cosa che chiaramente ti appassiona, perché la musica è una passione, poi è diventata una professione, ma comunque rimane pur sempre una passione, non te ne accorgi del tempo che passa, non te ne accorgi dei chilometri che fai in macchina, te ne accorgi solo della gente che ti sta davanti al palco, che ti sorride, ti applaude e canta insieme a te. Questo sì. Quindi questi anni che sono così volati via, perché guarda, se mi giro indietro, porca miseria, dico: ma accidenti, ma sono passati così 48 anni, non me ne sono neanche accorto, sembra ieri, è una frase fatta, ma dico proprio che sembra ieri, perché poi la cosa bella è che nonostante tanti anni ho sempre delle cose nuove da fare, questo mi piace tanto, scopro delle cose che non ho mai fatto ed è una cosa meravigliosa. Io sono Augusto D'Aoglio e vi auguro un buon divertimento, ma comunque in ogni caso un buon sentire con passione. Beppe, in tanti pensavano che con la mancanza di Augusto non si potesse continuare la tradizione dei Nomadi. Tu dove hai trovato la forza e qual è stata la tua decisione? In quale momento l'hai presa? Beh, la forza l'ho trovata in Augusto, perché noi durante i nostri viaggi, la racconto sempre perché uno può dire ma non è vero, comunque durante i nostri viaggi si parlava tra me e lui, che insomma eravamo insieme dal 63, insomma, e diceva sempre: Beppe, pensa che bello che sarebbe se un giorno io e te venissimo a mancare e i Nomadi continuassero, sarebbe come la storia dell'uomo mascherato che non muore mai. Quindi questa me la sono ricordata, a prescindere che quando ho saputo della malattia di Augusto avevo pensato di smettere, perché sai, in quei momenti lì non è che ti vengono alla mente, no, delle cose belle, o pensi subito, purtroppo vedi tutto nero, no? E poi pensare così, di trovarmi sul palco e nella vita di tutti i giorni, perché abitavamo a 500 metri di distanza, nella vita di tutti i giorni, senza Augusto così non riuscivo a concepire e vedere i Nomadi. Però dopo, per quello che ti ho detto prima, e poi per la spinta che ho avuto da tutte le persone, dai fans che non ci hanno mai abbandonato, anzi si sono stretti ancora maggiormente intorno a noi, incitandoci a proseguire il cammino per ricordare Augusto e comunque per non fare morire una storia molto bella. E allora non potevo tirarmi indietro. Io sono Dante Pregreffi, sono il basso, vi auguro anch'io un buon concerto e se volete scoprire di più dei nomi dovete entrare in questa barba di Augusto dove c'è tutta la storia del gruppo. Una storia lunga come quella dei Nomadi inevitabilmente si intreccia con le vite di tante persone, la storia di Dante Pregreffi, certo. Quanto vi hanno aiutato i fan che vi hanno sempre amato così tanto? Guarda, tu hai detto una cosa molto bella, la storia dei Nomadi non è solo la storia dei Nomadi, è la storia anche di tante persone, di Dante, di Augusto, di Danilo, ma anche di tutte le persone che in questi anni ci hanno seguito, ci hanno accompagnato. Direi che sono fondamentali, sono... Cioè, credo che i Nomadi siano una storia unica a sé, ti possono piacere o non piacere per le canzoni che fanno, ma questo non c'entra. Però come storia così, direi umana, no? Con questa unione incredibile che abbiamo con la nostra gente, io la chiamo la nostra gente, la chiamo il settimo Nomade, che è una cosa che non ha uguali secondo me. Adesso io non voglio entrare nel merito degli altri cantanti perché non conosco la loro realtà, ma conosco bene quella dei Nomadi e ti posso assicurare che abbiamo un pubblico veramente incredibile, che chiamarlo pubblico, la nostra gente, amici, una parola molto grossa, ma comunque diciamo persone che ci stimano e che ci amano, penso che in pochi possono vantare un pubblico così. Beppe, ho cercato di contare i vostri dischi e perdo sempre il conto. Sono davvero tanti, ovviamente. Tanti. Ma com'è cambiato il modo di fare musica da per quando noi non ci saremo a oggi? È diverso fare un disco? Conta in maniera diversa? Beh sì, è un'altra cosa. Una volta per fare un LP dovevi essere un cantante di successo, se no non te lo facevano mica fare. Devi avere almeno 2,45 di successo, allora potevi fare un LP, adesso fare un CD chiunque lo può fare e quindi ha perso un po' quel fascino, no? del fare un LP, ecco, una volta c'era questa cosa qua molto bella, il poter arrivare a fare un 33 giri, adesso tutti lo possono fare, ha perso un po' di fascino e poi il modo di fare musica, chiaramente di porgere la musica, sicuramente è cambiato. Io dico sempre, io sono rimasto me stesso, ho sempre suonato solo Nomadi, non mi sono mai confrontato con esperienze altrui, no? Quindi per me diventa, come si dice, sembra che non sia cambiato niente, ma in fondo è cambiato tanto, perché poi sono cambiate le persone intorno a me che stanno sul palco, quindi mi hanno contagiato e questo mi ha aiutato tantissimo. Sono di quelle cose che insomma ti stimolano mica poco, E poi come vuoi, adesso c'è il rap che io non avrei mai, non sono mai riuscito a capirlo, no? Perché secondo me non è tanto musica, però ci sono delle cose bellissime, anche se ultimamente dopo gli U2 non è successo niente di granché, a parte qualche donna, Lady Gaga così, ma io penso a veramente delle grandi trasformazioni, dei grandi segnali di cambiamento, come infatti Beatles e Rolling Stone. E poi chiaramente tanti altri di quei momenti, però il cambio diciamo di fare musica l'hanno dato loro, da quei momenti lì ci sono stati dei perfezionamenti, questa è una mia considerazione, però il resto, il cambio forte l'hanno dato loro e adesso i giorni nostri c'è chiaramente più elettronica, si sfruttano più le macchine, meno l'uomo, i Nomadi invece sfruttano loro stessi, non sfruttano le macchine. Toccami il cuore, senti com'è vivo. Che guardate sempre avanti, adesso avete preso una decisione forte e pesante, quella di abbandonare la casa discografica. Sta certo. Lì il futuro? Credo di sì. Per artisti tipo noi, oddio, ho usato una parolona, artisti tipo noi sì, o noi, non solo noi, ma Renato Zero, Pino Daniele, insomma, comunque per, diciamo così, artisti già conosciuti così con visibilità a livello nazionale, in cui una casa discografica non può aggiungere niente a quello che già c'è, quindi è giusto che ci si autoproduca. Una casa discografica ha senso di esistere per dei giovani che hanno bisogno di casomai di protezione, di promozione particolare, perché fanno fatica ad ottenerla. Per quanto riguarda noi, i nomi che tu hai già citato, credo che sia una strada che tutti, molti dicono, no, perdon, tutti no, Molti seguiranno, meno che non gli vengano rimpinguite le tasche di euro, quindi loro casomai rimangono lì, ma credo che la strada a seguire sarà questa, ecco. Con grandi occhi vede per te, con forte voce parla per te, con larghe braccia lei ti proteggerà. Mamma giustizia sa quello che fa. Cuore vivo, l'ultimo album, avete recuperato i vostri primi 10 anni, 67-77, sì, come mai? Parte. Ma perché allora? È un modo per non lasciare disperdere un patrimonio, per quanto riguarda i nomadi, musicale, di canzoni che comunque sono importanti per la nostra storia. Noi ne abbiamo incise più di 300 di canzoni, insomma, per noi sono tutte importanti. Adesso abbiamo fatto questa operazione, domani chissà se andiamo a ripescare ancora qualcos'altro del cosiddetto passato, che voglio che ritorni ad essere il presente. Amico che cerchi il tuo paradiso, l'inferno lo vivi quando hai la paura. A proposito di domani, allora, un figlio dei fiori non pensa, pensa domani, al domani e lo sappiamo, ma un cavaliere della Repubblica Italiana? Un cavaliere della Repubblica Italiana pensa al domani, però pensa anche all'oggi, insomma, perché credo che sia giusto vivere la vita per quello che ti dà giorno dopo giorno, però è bello anche pensare avanti, pensare che ci può essere ancora un futuro e pensare che comunque la vita vale la pena di essere vissuta. Ma tu te la metti la decorazione del cavaliere? No, no, ma guarda, per me è stata una cosa, comunque te lo dico, emozionante, perché quando me l'hanno comunicato al mattino, così che mi hanno chiamato dal comune del mio paese di Novellara, mi hanno detto: oh, guarda che ti hanno nominato cavaliere del lavoro, e poi ho incontrato il comandante dei carabinieri, oh, complimenti cavaliere, insomma, mi hanno fatto tutti questi complimenti che mi hanno fatto anche un po' arrossire, perché io non pensavo mai che io comunque o per quello che faccio come musico così potessi avere un'onorificenza per me molto importante. Sono cose che riempiono tanto, ecco. Ciao a tutti, Beppe Carletti, Danilo Sacco, Cicco Falzone, Sergio Reggioli, Daniele Campani. Ed è tutto per l'appuntamento di oggi. Insieme ai Nomadi ci ritroviamo domani. Da Marta Cagnola ancora l'augurio di una buona giornata.